Silvio forever sarà, Silvio realtà, Silvio per sempre. Silvio fiducia ci dà, Silvio per noi, futuro e presente. Chissà se Daniela Santanchè entrerà a far parte dei promotori della libertà, questa nuova legione azzurra creata da Berlusconi, che forse non esiste ancora sulla carta, guidata da chi? Da Michela Vittoria Brambilla. Presidente, come sempre devo prendere atto della tua grande capacità di interpretare quelli che sono i sentimenti più autentici e i desideri degli italiani, che sentono il bisogno davvero oggi come ieri di essere al tuo fianco per sostenerti e per tutelare i valori in cui essi stessi credono. E io ovviamente non posso che essere onorata della fiducia che ancora una volta hai riposto in me. Il mio impegno al tuo fianco è sempre stato massimo e così sarà anche questa volta, per dare corpo a questa tua nuova grande iniziativa insieme ai colleghi e agli amici del Popolo della Libertà. Beh, è strepitosa la Brambilla quando parla di Berlusconi. Vabbè, sto per dire una parolaccia, non la dico. Brambilla, ancora, voglio sentire, Brambilla, mettetemela su. Nello storico e glorioso percorso politico che ha accompagnato tutti questi anni il tuo cammino in Forza Italia, nel Popolo della Libertà e in tutte le organizzazioni parallele, si sono mobilitate in questi anni migliaia e migliaia di persone che hanno dimostrato di essere pronte a scendere in campo con esperienza, con grande capacità e con grande iniziativa politica. Migliaia per te, Silvio, migliaia per te si sono mobilitati in questi anni. Recependo di volta in volta le tue indicazioni, organizzeremo questo esercito, come ben l'hai chiamato, su tutto il territorio nazionale, dal nord al sud, pronto a mobilitarsi. Opererò, come ben hai detto, in raccordo con il coordinamento nazionale, con il settore tesseramento. Sono certa che faremo un buon lavoro. Gli strumenti di supporto che utilizzeremo saranno molteplici. Io credo che potremmo contare su un'immediata mobilitazione di un forte movimento di opinione, quindi ci aspetta un grande lavoro, ma certamente anche grandi soddisfazioni. Tu sai, io ho sempre creduto nell'importanza di dare voce agli italiani e al loro desiderio di partecipare democraticamente alla vita politica e di scendere in campo al tuo fianco, al nostro fianco, per sostenerci. Quindi questo è quello che faranno i tuoi promotori della libertà. Silvio forever sarà, Silvio realtà, Silvio per sempre. Sono cose da pazzi.